signor Bacchisio. Aspetta un attimo. Ah, mi ascolti, Bacchi? Sulla strada, sì. Sì, ha voglia. Ah, ti ascolto sempre io. Cosa stai facendo? La curva? Caldo c'era stasera. Deve essere che in qualche posto c'è temporale. Ehi, sto dicendo che in qualche posto ci deve essere temporale. Ehi, ogni tanto sento le scariche. In macchina non lo senti, ma qua già le sento. No, ancora non l'ho sentito. Non lo so. Bene, ti arrivo, sì. Sto provando quello là. Sì, sicuramente dice che va via tutto mangiano. Ma quale? Il coso? Ma quale? Il coso? Quello come preciso questo che ho io? Al grosso? Ma invece cosa è? Oh! Ma come mai da te nessuno funziona? Forse era l'alimentazione che non gli bastava. Forse non ce la fa il 30 ampere. Ma chi forse il 30 ampere non ce la fa, via, di essere di nobi. Oh, signor Gio Maria. Non c'è. Buonasera, sabato. Sì, cazzo, non c'è. E allora, provendigi. Provando sto. Ma va, tutto a posto, sì. Sì, stavassi. Meno male, era uno. Solo un po' garedo di diarrea. Cazzo diarrea? Cosa stai scherzando? Ma fatto a cucci. Ah, ti compri giù bagosa, due voci, mi sono entrato. Evidentemente hai mangiato qualcosa di strano, eh. Non è così. Me l'ha fatto anche a me la verità, Tutta la mattina. Ok, Bacchi, ci sentiamo dopo. Antone, come sta arrivando? Bene? Eia, a voglia. Così è. A posto, sì. Siamo a posto. E Bacchisio? E ha chiuso il garage e sta andando a casa sua. È un peccato quella verità. Quell'apparato che c'ha ha problemi, mi sembra un po' strano la verità. Ma chi è? Si affruscia ogni tanto? Io? Ogni tanto sente... Ora. Strano. Secondo come ti metti con il microfono e si affisca. Così anche con l'altro, giusto? Piace il beep, te più secondo come lo metti, piace il fischio, piace. Boh, strano. Ma ha detto che lui l'ha provato in macchina e cose funziona bene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, adesso il microfono da tavola, guarda un po'. Uno troppo amplificato, esagerato. Deve essere perfetta la radio, pulita. Infatti. Questa che sto uscendo io è pulita. Sì, ma è bassa però, il discorso è quello. Come bassa? Bassa. Forse vado ad aumentare il coso. Sì, ma forse perché non è caldo. La 3-5 comunque. Ti posso dare 3-4, non di più. No, non lo so come esce. Forse perché ancora... No, a Carlullo. Sì, stai ma tutto, fregatene. Sì, devo far scaldare questo. Ah, ok, vabbè, non c'è problema per quello. Ehi, comunque... sta uscendo, si sente. Quello delle cose, il bacchiglio è deve essere che era scarsa l'alimentazione. Non lo so quello, la verità non lo so. Se l'ha provato in macchina dice che stava funzionando. Meglio così, è da ora. Ma è cosa? Il Kenwood? Dici, ma di. Allora non è questo di cosa? Questo di alimentazione lo sa, senz'altro. Infatti, bisogna attaccargli un 50 ampere, bisogna attaccarli. 50 ampere no, ma 30 sì. Lui ha detto che gli ha attaccato il 30 ampere. Vedi, non gli basta, cosa ne so? siamo d'estate, il discorso è quello. Forse per quello. Fate quello lì. È stato solo così. Sa. Si sa. Aspetta, se è entrato il signor Marino. Signor Marino! Marino, ci sei, don Zino! Ciucucciù! Ciucucciù! Così avrei qui anch'io. Carità, guarda. Giulia. Cosa stai adoperando? Il Saturn 9? Esatto, sì. Saturn 9 sto usando. Quello, 150 euro pagato. Nuovo, nuovo. Bello, tranquillo. Anzi, nuovo, nuovo. Quello che sia. Però è bello. Ho speso 50 euro. È davvero, guardami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, com'è? Ecco, suo vicinale. È abbastanza forte, già è bello come cosa. Ecco, lì siamo a posto. L'ho pagato poco, e quindi va bene. Sì. Ma ragione, a me non mi piace, mi va ragione, ma ne vanno. Sì, vabbè, mi ha regalato la mia ragazza, là. Che cazzo, capito, c'ho 50 euro, cosa vuoi di più? A un certo punto, non è che abbia pagato molto. Ehi, vabbè. No, a finirlo in congiugusci, poi. Appunto per quello, ho speso 5 euro di pezzi, ed è proprio normale. Come mamma l'ha fatto con l'apparecchio. Originale, tutto lì. E andiamo, e andiamo. È bello, veramente bello, guarda. Sono contento di aver fatto l'affare. La verità, sono veramente contento. Perché c'è 50 euro, ne vale anche la pena. Non c'è problemi di frequenzimetro come capita di solito, hai capito? Quindi, a parte la questione della potenza, quello che è tranquillo, veramente bello, veramente bello. Ho fatto un bel lavoro. Sì, vabbè, a me piace un po' normale, piace senza avere le cose di potenza, le vite che d'altro. E vabbè, se sei 15 anni che a un certo punto che se vedi una parte così, secondo me cosa devi fare? Cambiare tutti i finali, roba del genere, piano piano, non è che spendi molto la verità, ma comunque sia, io ho speso 5 euro, non è che abbia speso molto, la verità, quindi sono tranquillo, ma sono veramente contento. Meglio così, meglio così. È bello per quello, a me lo frequenzimetro segna giusto, perché di solito, già sai, quel tipo di frequenzimetri segna dopo mezz'ora cambia frequenza, incomincia a camminare, no, questo invece, grazie a Dio, gli hanno fatto una modifica e c'è il dissipatore, e quindi il transistor, quello che della frequenza rimane stabile, capito? È cambiato il dissipatore, è cambiato, andava e funzionava. Non l'ho cambiato io, l'ho cambiato gli altri, la verità, ma comunque sia, è a posto. Oh, andava, vuol dire che già è buono. Appunto per quello, io ho come se 27255 è stabile, no, come fare di solito, capito? Che sono 2,54, 2,56, 2,55, 2,50 e cose del genere, no? Questo è stabile. Meglio così. Non è andato di tenere a cercare dei bulli, deve essere il suo bisogno, so. Non lo so. Attenzione, signor Bacchisio. Mi spiace per Bacchisio, la verità. Perché, cioè, perché io volevo una cosa diversa. Se non avessi sistemato, ma purtroppo non ci può fare più di tanto, la verità. E l'ha parlato che c'ha più di 20 anni, quindi a un certo punto non ci metto mai dietro, capito? Lo rischio io. Quello sì. Ma questo che c'ho io l'avevano revisionato, me l'aveva detto lui. È stato revisionato, controllato tutto quanto, è cambiata la batteria, l'avevano cambiato, è messo a posto. Sì, vabbè, quello che è, comunque sia, il discorso è quello lì. Purtroppo non ci può fare niente. Quello sì. A me funziona benissimo, andare. Lo porto da Vittorio e il suo sistema è meno a posto, tranquillo, e non c'è nessun problema. È l'unica persona che può farlo, la verità. Ma non lo so, adesso lo riporta su, adesso che lo prova. E vabbè, quello che, ma comunque sia, il discorso è quello. Meglio che lo porta, non lo so, si fa i conteggi, si fa il conto della spesa, quello che è, poi chiede a uno all'altro, si fa il preventivo, come si dice, no? E poi fare, si fa il lavoro quello che è, o uno o l'altro, ci va quello. Attenzione signor Bacchiglio. Aspetta, cato Pinocchio, avanti Pinocchio. Pinocchio a me. Buonasera a tutti. Visto, si è entrato adesso. Non vediamo l'eso quanta la sera, ma fa ancora a te. Che scurrile che Antonello, ah, sore. Sempre a parolacce. Io ero a casa. Stavo facendo ricerche su internet, stavo stampando roba, stavo fotocopiando roba, stavo leggendo roba su internet, insomma, io sono arrivato solo adesso al baracchino. Figurati. Infatti, se gli deve fare le cose a casa tu interrompi, Antonio, non lo giochi. Ma ci devi fare le cose giù, ma... Oh, no, Antonetta, avevo chiamato venerdì o sabato, forse venerdì. Ma non rispondevi, allora ho lasciato stare. Ti avevi chiamato, già lo sai, boh, era baracchino insieme a te. No, allora era sabato, non mi ricordo, forse era sabato. Guarda che c'è la data. Vabbè, dai, pazienza. Tu che mi hai detto la stessa identica cosa, quindi era baracchino insieme a te, ma dopo però, hai capito? Poi tu mi hai detto no, non esco, pazienza, vabbè, ci vediamo vicino, mi hai detto un altro giorno, vabbè, mi hai detto non c'è problema, basta. Infatti non ti ho detto niente. No, io ho chiamato il giorno dopo di quella discussione. Sicuro si è assicurato? Boh. Ah, beh, vedi, se no ti avrei chiamato io, o solo l'altro, ma se ti avrei capizzato. Dovevo andare, cioè, se ti ricordi bene come sono tu al baracchino, dove c'è il bar di fronte, siccome quello ormai è andato in ferie, pazienza, va a far culo, se la piglia in culo, al limite un altro giorno andiamo da qualche altra parte. Brutto maleducato, non sei altro, caffone. Chi è? È sempre a parolacce Antonello, capito? Lui è abituato così. Lo so. Ciao. Lo so anche, adesso non è che lo saluto. Ahia, ciao, caro. Scusami. Ti mando un bacino. Buonasera. Guarda, mi sarei voluto trattare a parlare un pochino, però qua c'ho troppo caldo, vado in piscina. Ciao. Dov'è in piscina? Se mi inviti venga anch'io. Grazie, non si può stare dentro casa. Non si può, no, allora non ci vengo, vabbè, pazienza. Ah, ho detto, non si può fare dentro casa, qua c'è troppo caldo. Vado fuori e mi butto in acqua. Ah, meglio così, d'accordo allora, ok. Quindi mi faccio la doccia dentro casa io. È meglio. Vabbè, ciao. Buon Ferragosto, se non ci sentiamo, buon tutto. Passata bene, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao Tino, sì, tu no, Tino Muscolo, sì. Tino Muscolo, sì, esatto. Veglia, ciao a tutti, ciao. Va bene, dai. Sai Antonio, non mi trattengo perché sto aspettando la risposta da uno su internet. E non ce l'ho qua lo smartphone, ce l'ho dall'altra parte. Ok, ciao Torre Squadro, ciao Bacchisio, che c'è l'ascolto, dai. Rimango in ascolto. E boh, ciao. Io, ciao, a dopo, va. Hai visto? Hai fatto scappare tutti col tuo torpiloquio. Non ti credere, guarda, io stasera ho trovato una persona che conoscevo da qualche tempo fa, un politico, mi ha detto, dice, ah, sono stanco, mi ha detto. Quindi ti chiamo dopo quanto lembre. Sono, e gli ho detto, lavoro di moto, gli ho detto, sì, di mano, gli ho detto, della politica. A un politico, e tu dovevi rispondergli che noi siamo stanchi dei politici invece. Abita cerca a te, se vuoi sapere, anzi vicino a te, sa 500 metri non di più. Oh, e che politico è? Io adesso non te lo dico, ma lo faccio sapere di persona. Hai capito? Abita 500 metri da casa tua. Dimmi almeno l'orientamento politico, destra, centro, sinistra, centrodestra, centrosinistra. No, non te lo dico, sennò sono fregato io, quindi. Anzi, mi ha risposto, è bello quello, strano. Io politici qua vicini, guarda, in linea d'aria c'è Pisano in via come si chiama? Principessa Yolanda. Ma io di altro non ne conosco. Ehi, c'è più Pisano, fegato. Cioè, molto di più. Ah, vabbè, comunque sicuramente non lo conosco, non tratto con i politici. Lo conosci anche tu, non ti preoccupare, lo conosci anche tu. Quanti misteri per un politico. Sì, tu dovevi dirgli queste sole parole, noi invece siamo stanchi dei politici. Lo so. Vabbè, comunque c'è WhatsApp, me lo puoi dire lì. Manda un messaggio e vado a pigliare lo smartphone, chi sarà mai. Ma magari non l'ho mai sentito nominare. Io voglio che sentito nominare. C'è un negozio, mi viene un bento, non hai capito chi è. Vabbè, c'è WhatsApp se ti interessa dirmelo, se no, pazienza, io già non ti telefono per saperlo. Ascolta, quanti ci sono che lavoravano in Galumberto? Secondo te, molti ce ne sono? Contro le Chopin, quanto ti devo dire? Tu è entrato in politica, hai capito? Ma chi? Quello che, portava le pistole elettriche? Pure politico diventato, con Sisemmo. Ci sei arrivato, guarda male, grazie a Dio. Guarda, poi già era entrato l'azione il suo, ci mancava solo il politico, l'ultima spiaggia proprio. Vabbè, quello che adesso vediamo come si comporta, vediamo un po'. Se no, cazzo, incendiamo. Io credevo che fosse emigrato in America o da altre parti d'Europa. A parte che ne ho un lontano ricordo, Ne ho un lontano ricordo, non mi ricordo nemmeno più come era fatto. Ricordo che aveva gli occhiali, o sbaglio? Ci ria. Va bene. Vabbè, tutto qui. No, non sapevo minimamente fosse politico, francamente. Oggi hanno fatto vedere Salvini a torso nudo in mare, eh? a fare le frecciatine anche dalla spiaggia. È meglio per lui, almeno guadagna voti, diceva quello. Che poi tutti i politici nostri li ha visti come sono, hanno la pancetta, capito? Non sono fisicamente messi bene, sono delle vecchie vescicche, sono. Vabbè, chi più che meno, politici non sono molto che fanno palestra, sport. Il loro sport è scaldare, lucidare la poltrona col sedere, capito? Ma neanche, già lo sai. Ma già mi sta venendo il dubbio, quando ti ho chiamato quel giorno non avrò sbagliato numero, no? Perché ero andato a memoria in fare, o no? Vabbè, dai. Ma quindi gli hai detto il fatto del distributore in ferie? E lui non paga niente, è meglio fargli pagare 50 euro, ecco. Abbiamo parlato insieme, volevo dire, aspetta che c'è rumore, ecco, ti volevo dire, ma il bar del distributore è in ferie? Ho capito. Il bar del distributore è in ferie? Sì, da ieri notte la verità, ieri notte è chiusa a mezzanotte, c'erano due imbecilli in realtà, erano là lì, c'erano divertiti, ma purtroppo... Quindi, non mi hai chiamato a un certo punto. Ha chiuso a mezzanotte io, era un... veramente bello. Era fanculo a me, non ci sono andato. Sì, vabbè, perché? Cosa volevi stare lì fino a mezzanotte? Ah. fregatene. Per un bar vale l'altro, di certo lì paghi meno, la bottiglia di birra la paghi meno. Cosa ti volevo dire? Ma mi è sfuggito di mente. Vabbè. Beh, cosa pago al ciclo di meno che c'entra, ma comunque sì, al bar c'era divertirsi, c'era il cantante, che ti divertivi, c'erano quelle due ragazze buone, scusa. No, volevo dire, ma è giusto che ieri era 11, no? Che c'era la geminata a Porta Sant'Antonio. Ci hanno cambiato zona, prima la facevano Piazza Colonna Mariana o come si chiama. E ho letto sulla nuova che era a Porta Sant'Antonio. Chi me lo può confermare? Io te lo confermo perché è così. E gli ci vanno tutti a mangiare a sbaffo, a me non mi è mai piaciuto andare a mangiare a sbaffo lì, poi c'è troppa gente, c'è un caldo boia con tutta quella gente lì, mamma mia. E vabbè, io quando voglio Zimino me lo compro, me lo faccio a casa, eh? Io lo Zimino, vai, allora per gli affutidini. Perché non ti piace lo Zimino? Vabbè, tutta la carne è buona, quella di cavallo, vabbè, io ho i denti un po' messi male, lo sto un po' coriaccia, ma quelle carni morbide, il maiale, il porcetto, coso, mamma mia che buone. Guarda che il zebino è solo il dente viola, picchiato e basta, quindi c'è la cacca, c'è tutto, quindi se non è lavato bene ti mangi la merda. Vabbè, ma tanto c'è il calore che sterilizza. Io mi ricordo che quando un'amica di mamma in campagna, no? C'era il fratello che era sempre quello delle giminazze che portava lo zimino. Di norma e regola, lo zimino, le budella, gli dovevi dare una sciacquattina così col tubo, no? Ma non dovevi farle pulite pulite. Perché dice quel leggero residuo che rimaneva nella canna, dava quel saporino, quel retrogusto amarognolo che non guastava. Appunto per quello, quindi c'era buono comunque, di cosa, non c'è problema. Vabbè, ma tanto rimane al fuoco con 300 gradi, a voglia si sterilizza. Tu le attacchi al rubinetto, gli dai una sciacquata, no? Poi anche se le pareti interne del budello hanno un po' di residui, non gli fa niente. Anzi, dice, l'ho detto, gli dà un po' di sapore in più. Tanto quelli mangiano erba, e alla fine, vabbè, tu dici sempre cacca è. Vabbè, comunque anche se Sarisi facevano così, dice, non deve essere troppo pulito l'intestino lì del budello, se no non sa di niente. Ah, sai cosa vola? Che schifo. Vabbè, io l'ho mangiato, per esempio tu il formaggio con i vermi, che poi non sono vermi ma sono larve, l'hai mai mangiato? No, però cosa l'ha mangiato la vetta? E non è morto. Ma certo non è morto per il formaggio. Guarda, io l'ho assaggiato a Campanella tanti ma tanti anni fa, l'ho assaggiato la prima volta a Campanella. Praticamente le prendevi un pochettino di formaggio, appena appena, soffiavi appena appena per levare le larve, poi quelle che rimanevano dentro, pazienza, ti davano un pezzettino di pane ed era molto molto forte di sapore e un po' amarognolo, un retrogusto un po' amarognolo, ma ti dirò che era buono, era buono. Poi certo c'è gente che proprio non ce la fa, non ce la fa a mangiarlo perché prova repulsione. A me, francamente, il sapore è buono, poi vabbè c'è chi proprio non riesce a mangiarlo, capito? Per esempio io fare quelle cose che fa Bear Grylls, quello che si mangia i ragni, che si mangia le larve, che si mangia le palle della capra crude, io quelle schifezze non le faccio, però il formaggio con i vermi devo dire che è buono. Casu Marzu. Aspetti, rispondo dopo, se mi fai vomitare. Ma che conta, no? Che quelle larvette, no? Che vivono nel formaggio, mangiano, a parole mie, cagano anche nel formaggio, quindi stai mangiando anche la cacca di vermi, delle larve. È quello che gli dà il gusto molto forte, molto anche leggermente amarognolo un po', se vogliamo. Quello sì. Ne vuoi cacca di cosa? C'è problema? Quanto ne vuoi, va? Ce l'è. Vabbè, è questione dei punti di vista, Antonè. Un bel Sardi l'hanno assaggiato e dicono che è buono. Poi vabbè, chi prova repulsione, per esempio io non posso vedere i ragni, proprio è una paura ancestrale, non li sopporto, proprio li devo ammazzare quando li vedo. È una paura ancestrale, una cosa innata, capito? Come chi può averla anche per le larve e roba del genere. Poi è arrivata l'Unione Europea e ha detto che non può essere venduto perché è pericoloso. Pericoloso per chi? Ci sono i pastorazzi di alta montagna che lo mangiano da una vita, qui centenari, campano 100 anni, che mangiano vino magari buono. Cioè il vino buono, senza adulteranti e aggiuntivi, no? Latte è naturale, tutta roba naturale, vabbè. Comunque c'è gente che è convinta che faccia male, che proprio sia quasi mortale mangiarlo, tutte fesserie. Faccio un attimino, arrivo subito, 2 minuti, mi stanno chiamando. Scommetto che stai andando a vomitare. Tranquillo. Prendo la lattina e te la faccio per sentire, non sono l'altro, aspetta. Vai, tu sei delicatuccio di stomaco. A dopo, vado in bagno io. È arrivata la cacca, sono troppo occhio. Aspetta, gli arrivo subito. No, veramente non farò la pipì, perché bevendo molta acqua faccio molta pipì. Plin plin si dice adesso. Ah, Piero, l'acqua non c'è problema. Sto arrivando, aspetta. Corre. Sei a Gianmarì? Ah, grazie, sì. Sì, no, sono rientrato adesso, stavo facendo cosa un attimino. Ah. Marchigio, non si senti? Ma lo so, perché mi sono allontanato. Aspetta a vedere. Marchigio, attenzione Marchigio, nuda da va. Grazie, ti stai incollando lo smicchiare. Con grande sì. Lo sto facendo girare un po'. Fai bene. Bene. E non risponde a signor Marchigio. Evidentemente. Sei già pranato. Sicuramente sì. Attento, signor Marchigio. Oh, da qualcuno, boh. Forse c'è gente, magari. Ma sto facendo qualche cosa e non può entrare. E me la si fa sentire prima delle 8, va. Bene. Salito sei a Sant'Agostino ieri sera. Oh, ci sono solo passato e boom, ma non vera nulla, non c'era. Sì, stasera c'era la processione e poi stanotte ci sono i fuochi anche, cioè il complesso ci sarà, boh, e i fuochi ci saranno. Non lo so se hanno fatto qualcosa, boh. ci sono soldi perché ero stasera ero a mal di pancia e a che vuoi stare così. E dove li fanno i fuochi? Non penso, è forse Sant'Antonio, dove li fanno? Non c'è posto, dove li fanno? Non lo so, so che fanno i fuochi stasera. E ma sto dicendo, dove li fanno i fuochi? In quale punto? Che piazza è? Nella piazza di fronte alla chiesa. Dentro Sassari, dentro il città, forse è una strana coincidenza, no? No, Marino, non lo so. Buonasera. Mia Marco, Marco, io mi sono allontanato, poi non sono potuto entrare. Sì, stavamo parlando di andare con Antonio di roba da mangiare, il formaggio con i vermi. E lui è delicatuccio per queste cose. Sì, va tu bene. Ma si è allontanato. Preprenda Gianmarino. Ok, buonasera Marco. Ma chi di voi non l'ha mai assaggiato il caso marcio? Un tempo lo mangiavo parecchio pure, ma adesso no, non mi va più. Che schifo, va. Vabbè, però un po' lo capisco, perché c'è gente che non tollera repulsione per le larve, perché un po' li posso capire, io ce l'ho per i ragni non li posso vedere, è una cosa più forte di me. Quando ne vedo uno sul muro che mi cammina vicino lo devo ammazzare. Lui mi fanno proprio non paura, più senso, ribrezzo, è una cosa proprio che ho avuto sempre da piccolo. Va bene, dai che devo tornare al computer. Antonè, a dopo forse, dai. Ciao, riprendi Giomani. Sì, d'accordo. Solo Antonè non lo può mangiare quella roba. La roba non ci piace. Ci fa un certo effetto a mio attore. Senti Antonello, se ne dai una forma se la mangia a piena. Sei fresco tu. E allora, certo. Io lo mangerei, ma quello bianco però, senza esserci quei galleggianti, perché in solito ce ne sono due o tre chicchi di questa roba, capito? Quando ci sono i galleggianti, prima la mangiavo, ma adesso no, non mi va. Otto, a te ti piace? Mangiare cosa? Un semino? No, è con Mario Marcio. Certo, oggi mangiando un bel voce io, però di quello cremoso proprio, che ci sono pochi vermi, ma cremoso però. Quello cremoso è molto buono, vabbè, una volta a uno mi hanno dato la forma, ma era tutto proprio cremoso, tutto bianco, non c'erano i galleggianti, capito? E per cui dopo mi sono stufato e l'ho regalato alla laboratore alla verde, scusate. Quello altro che ha fatto la magnata, bianco bianco era quello lì, non so, ma l'hanno voluto dare a me, non ne davano a nessuno, però siccome avevamo degli amici che si conoscevano questa persona e me l'ha regalata per la verità. No, a me l'ho mangiato un sacco di volte, ma chi me lo dava a me era un pastore. Lo faceva lui, lo faceva e sapeva come vermi ne vedeva poco e nulla. Lo fanno anche a posto, ragazzi. Lo aprono, fanno un buco, ci mettono il latte. E allora diventa bello cremoso, allora sì, ma quei galleggianti, no, prima li mangiavo, adesso no. Solo a Tonello li può mangiare quello, vero a Tonello? Che lo prego tu? Di la verità, io ti piaccio. No, credo proprio, guarda, stai fresco. No, mica Antonello è delicato di stomaco. Ogni tanto mi dice che mangia cose normalissime, mi dice, sono stato male tutta la notte. Io in confronto c'è uno stomaco distrutto. È perché quelli sullo stomaco si muovono e fare condensa. Se te lo posso assaggiare io, vedi, te da buio. Direi che vince le labbra, direi. È sicuro. No, Antonè, a parte tutto, il sapore può essere forte, è molto forte, quindi magari chi non è abituato deve mangiare con un pezzettino di pane, però è buono il sapore, non è cattivo. Poi vabbè, io quella volta che me l'hanno dato, io vedevo queste larvette, io l'ho soffiato un po' per togliere il grosso, poi quella che c'erano dentro mi la fottia assai, io me lo sono mangiato. Tanto non fa male, invece l'Unione Europea ha detto che è pericoloso e ne è vietato la vendita. A parte che in realtà anche prima non è che lo trovavi nei negozi, lo potevi trovare solo chiedendo al pastore, capito? Era una cosa già sotto il banco da prima, alla fine l'Unione Europea, primo cosa ne sa di queste cose, non le comprendiamo, e poi che sia pericoloso è tutto da vedere, non è documentata la cosa. E poi quelle, se glielo dai assaggiare, ti fanno anche del cappello, ti fanno, che è un bel buono. Sì, ma da quella parte lì, mi Germania, cosa ne sanno loro, che c'hanno il Gouda, se mangiano loro, di dov'è? L'Emmental, capito? Per esempio io mangio il brie e il camembert, che è francese, no? Che praticamente sopra è ricoperto di una specie di muffa bianca, che però non va tolta, è parte del formaggio. Se togli quella, togli gran parte del gusto, è una muffa commestibile prima di tutto. È come il gorgonzola, c'è una muffa però esterna. E c'è gente che non gli fa schifo anche quello. Vabbè, o sono io che sono di bocca buona, io mangio un po' di tutto. Certa gente è schizzinosa, mi hai capito? Poi Tore, come gli ho detto Antonello, i sassaresi un po' lo facciamo, quando pulisci lo zimino, l'intestino, no? Ti dai una sciacquata così col rubinetto per togliere il grosso, ma poi anche se all'interno rimane un po' sulla parete di qualcosa, poi viene cotto, capito? E gli dà quel retrogusto leggermente amarognolo che non guasta. Motorello, difficile. Aspetta, avete parlato in due, come Tore? Ripeti Tore. Antonello, è difficile mangiare queste cose, no. Però se glielo faccio assaggiare io, quello proprio fatto come si deve, il formaggio cremoso proprio, come dico io, vedrai, se ne recca, pensa di labbra, se ne recca. Ma chi piatta le segni, eh. Io li vedo tutti i lunedì, li mettono i vasetti, è buonissimo. Sì, ma non è come quello che fanno proprio i pastori, ecco cos'è, quello lì glielo danno, ma non è buono. No, sì, è proprio quello che non lo mangiano loro, li mettono in vasetto, questo cremoso, e li prendono, capito? Giammari, io l'ho preso e faceva schifo. No, non era buono come doveva essere. Faceva schifo, te la giuro un po' di un muro. Bisogna conoscere, poi. Bisogna conoscere. Come quello proprio con i peli, capito? Solo che bianco bianco e il sapore è sempre lo stesso, non perde niente, tutto quello che non hanno il sapore, anche quello stesso. Io l'ho mangiato, ma a me mi ha dato questo che conosco, il pastore, lo fa lui. E so che è buonissimo, lo mangio. Ho mangiato anche quello che fanno i pastori vicino a Nuoro, pensa un po', che lo fanno buonissimo lo stesso. Io ci sono ancora, però non lo posso provare, capisco? Mi sembra che non lo posso vendere, non l'hanno, però sotto, capisco? Però io magari vendo una cosa veramente che fa male, quella che fa male, non la vendo. Infatti, se tu pensi che nei formaggi tutti confezionati ci sono conservanti, ci possono essere antiossidanti, coloranti anche, capito? Invece quello è un prodotto naturale, più naturale di quello. Quello naturale è veramente buono, quello lì è quello che avevo dato a me, cazzo io. Questo dicendo, proprio l'ha aperto davanti a me, l'ha fatto, oh, proprio più, la parte superiore come un tappo, e dentro era burro, bianco bianco, però i camicianti non ce n'erano, ma un sapore che non finiva mai, però dopo ha stufato, l'ho regalato. Guarda, su YouTube c'è un video, no? C'è un video fatto dagli americani, no? Un documentario che poi l'hanno tradotto in italiano. Ci sono questi americani che sono andati in montagna, in Barbagia, non so dove, e hanno intervistato il pastore e assaggiato quel formaggio con i vermi, no? Porta, questi erano americani. E gli hanno chiesto, come si consuma questo formaggio? Quello gli ha risposto con l'accento sardo: se mette in bocca si mangia. A me me l'aveva guardata, ho orgoglio. Però siccome io allora uscivo con il furgone, vendevo quadri con rappresentanti, e conoscevo il capo mafia della cucitura, questo rappresentante. Allora ci ha portato direttamente a Sopramonte, lì c'era un agroturismo, ma c'era di tutto, che ho mangiato anche i brufoli di quell'agroturismo. E tramite questa persona allora mi ha dato questa forma, ma una cosa, ma lì è tutta roba che va, mangiano questa roba che va, per cui ha un sapore troppo perfetto, capito? Ma adesso no, perché adesso con questo fatto del mangime, che la isola con mangime non nemmeno il formaggio ha più il sapore magari che c'aveva prima. Signori, approfitto della Cianelli, ci sentiamo magari domani, molto ciao a tutti, anche da scultura. Mangiano anche insetti fritti, blatte, scarafaggi fritti, mille piedi, quelle non ci riuscirei. Magari sono anche buone, ma quelle non. Poi chi non prova, magari, però pensare a quei mille piedi, quegli scarafaggi, le cavallette, mamma mia! Ok, Vittore, mi sento sopravvivente, Vittore, sta chiudendo. Ciao a tutti, ci sentiamo, buon proseguimento. Alle prossime, a domani se coincide, vai ma. Ehi, ciao Tore, dai, ci sentiamo, buona serata, sono già le 8 quasi. Sì, le 8 in punto. Ti dicevo che in Thailandia si mangiano insetti fritti, mille piedi, cavallette, blatte, scarafaggio, cosa sono. Per loro è normale, a noi fanno schifo. A noi ci piace il formaggio di vermi e magari a loro fa schifo. Vedi come sono i gusti, le usanze. Ehi, sono lì quello stato, ma anche in Cina, anche in Cina, anche in Giappone fanno dei pranzi speciali con questi vermi del genere, per mangiare. Magari noi magari non siamo abituati a mangiare questa roba, ma si fa schifo. Ma per noi sono piatti privilegiati, capito? Ehi. Lo stesso in Messico c'era un documentario chiamato Mondo Cane, no? Faceva vedere che in Messico si mangiavano queste formiche, non mi ricordo se erano vive o appena saltate in padella, mia, come dire arrosto, appena appena. Ci facevano il cartoccio, no? E lo riempivano i bambini magnendi, i bambini mangiandosi formiche, magari un po' cotte, ma mamma mia. Vabbè, dunque, usi e costumi di ogni paese sono. Infatti, come le rane così. Le fanno tutto, per cui come mangerie, assolutamente. Però, dice che tu morì, però, a me non mi piace. Mi piace a te le rane ancora. A lui piace la birra. No, non credo che le abbia mai assaggiate. Guarda, qualcuno ha detto che sanno, hanno misto, un sapore misto tra il pollo e il pesce, una cosa del genere, solo che essendo viscide, non lo so, poi io già sono, io a gustare, già sono abbastanza incline a gustare i piatti degli altri paesi, entro certi limiti, se per esempio se i cinesi mi danno un cane cucinato non lo mangio, il cane per noi e nella nostra cultura è un animale da compagnia. Infatti, anche quelli che non mangiano la carne del maiale, puoi immaginare. Eia, i musulmani e gli ebrei, anche gli ebrei non lo mangiano il maiale, lo considerano un animale sporco. che è anche vero, ma una volta che lo pulisci e che lo macelli è un bijou. Come si fa a vivere senza la carne di maiale? Peggio paetti. Beh, ma quella gente magari non l'ho mai mangiato, per cui hanno un altro modo da fare, per cui lui invece, il maialetto, cazzo, io non dico niente, ma ne ho mangiato due pizze, per carità, vabbè Marco, le 8:05 chiudo, ci sentiamo domani, grazie alla chiacchieratina, saluto lì a Liu e già a Tonello, se stai in nascosto. E gli ascoltoni, e chi lo altro, vai, a domani. Ehi, a Giomarì, come chi mangia i gatti? Io i gatti ce li ho a casa, come in compagnia, figurati se lo farei mai, assolutamente. Che poi, a parte di tutto, il gatto è come il che sa di coniglio, è un po' dolce la carne, tipo il coniglio. Però, te l'ho detto, non mi farebbe senso mangiare. Va bene, dai, ci sentiamo. Ciao Giomarì, buona cena, buon tutto, alle prossime. Ok, altrettanto, ciao, chiudo. Antonello, ci sei ancora? Tu sei svenuto? Va bene, ciao a tutti, ciao.